Ciao, questo è Jack, lo spinotto musicale di Radio Popolare. Buon pomeriggio cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono Matteo Villaci, benvenuti a una nuova settimana di Jack. Come al solito il lunedì Jack si incastra in quella ventina abbondante di minuti che stanno tra il GR delle 15.30 e le 16 e apre una monografica. Oggi lo facciamo su Exuvia, il nuovo disco di Caparezza. Lo faremo chiacchierando con Caparezza per farci accompagnare un po' in questo suo ultimo lavoro, ma non solo. Partiamo però andando ad ascoltarci il primo singolo che è stato estratto da questo disco e che appunto è Exuvia. Ho visto il demonio, sto scavando dentro di me, così tanto che schizzo petrolio. E il mio rito iniziatico, ma non ho aculei nel corpo. Vado da mea culpa, dico mi absolvo. Sono una larva sporca del mondo, faccio mano, lo sopra quel tronco, rischio un bel tonfo e sarà tutto nuovo. Come dal neonato con la pancia all'aria, dopo il mio passaggio dalla pancia all'aria, schizzo gli occhi fuori dalla faccia alla mia. Non sto più nella pelle mamma, fuori di me. L'aspetto di un altro, il mio autoritratto ha i colori in eterno contrasto. Mi son preso i miei spazi, ma ho lasciato che il tempo fuggisse. Faccio un mucchio di cambi, quindi adesso chiamatemi mister. Sono ancora alla guida, tengo il piede alzato da quel freno. Anche se della vita prendo sempre il lato passeggero. Quello che è stato l'ho già silurato, ogni mio scatto è di prassi bruciato. Non dimentico le radici perché tengo le mie radici, ma ci ritornerò quando sarò inumato. I miei dubbi hanno dei modi barbari, invadenti sono troppi. Il segreto è fare come gli alberi, prima cerchi dopo tronchi. Chi ti spinge dopo quella soglia, se non è la noia sarà il tuo dolore. L'occasione è buona per andare altrove, tipo fuori. Fuori di me, Exuvia, spiego le ali, au revoir. Una tua chance esplodirà, gioco alla pari con l'età. Passati, abbassiti, abbassiti come quadranti di da lì. Passati, parassiti, parassiti, fame di me, cannibali. Exuvia. Come se il rituale di un sottoposto, e comincio a cantare il mio nuovo disco. Come queste cicale dal sottobosco, sottoposto al rituale obbedisco. Fosse il rituale di un sottoposto e comincio a cantare il mio nuovo disco come queste cicale dal sottobosco. Exuvia, dal disco Exuvia, benvenuto Caparezza Radio Popolare. Partiamo, facciamo un passo indietro perché poi entreremo nel tuo disco e ce lo facciamo anche raccontare bene, perché è un disco che evidentemente parla di un periodo importante anche della tua vita, non solo quindi della tua, del tuo percorso artistico. Ma a proposito di percorso artistico, facciamo un passo indietro. La tua carriera è molto particolare, tra l'altro alcuni passaggi di questa carriera, no? Quello da Mickey Mix a Caparezza, un primo cambio di identità che ti ha riguardato, il tuo rapporto con la scena rap e la scena hip hop, un rapporto unico rispetto a quello degli altri artisti, un piede dentro e uno fuori, un po' viene anche raccontato in questo disco. Ma come è iniziato il tuo rapporto con il rap e quando? Sì, allora, 13 anni. A Molfetta c'era un canale che si chiamava Telemare che trasmetteva delle cose così, diciamo, da un, credo da una stanza, non so. Vabbè. E ogni tanto, quando mancavano i contenuti, credo arrivassero delle beta da qualche parte con dei video musicali, no? A un certo punto, io all'epoca, ma anche prima, già mi nutrivo molto di musica, mi ricordo benissimo che a un certo punto è comparso questa esibizione live, in realtà, dei Run DMC che performavano UB Allen. Quindi non sto parlando di Walk This Way, sto parlando di un'altra traccia di Raising Hell, quell'album lì. Io sono, diciamo... Cosa ascoltavo prima? Ascoltavo robe strane, ero un super mega fan dei Kraftwerk, quindi della musica elettronica, dei Rockets, tutta gente che si travestiva sul palco facendo finta di essere aliena o proveniente da altri mondi, e ascoltavo anche il rock dei miei coetanei, che non ho mai smesso di ascoltare in realtà, cioè nel senso poi alla fine questa cosa della DMC si è, come dire, incastonata, si è sovrapposta. Certamente io non sapevo che Run DMC facessero parte della cultura hip hop, non sapevo cosa fosse il rap, non sapevo nulla, però questa roba mi è arrivata fortissimo e così ho cercato di recuperare questo disco, solo che non c'era internet, non c'era niente di quello che conosciamo oggi a prova di dito, no? Pensi una roba, la ottieni e arriva diciamo... la via crucis dell'ottenere qualcosa, no? Quando sono andato nel negozio di dischi di Molfetta ho scoperto che nessuno sapeva chi fossero i Run DMC. Ho dovuto aspettare un bel po' di tempo perché era un cosiddetto vinile di importazione, e quando è arrivato, insomma, io mi ricordo questa scena, ero talmente felice di avere tutto l'album di questi tre che mi seccava che alla cassa non strappassero ancora lo scontrino. Avevo questa voglia di... Volevo tornare a casa per ascoltarlo in tutti i modi. Questo è stato il Big Bang. Invece, quando è che hai iniziato proprio a metterti a fare questa roba? E anche come? Come è iniziato? Da cosa è iniziato? Allora, tanto per cominciare, io mai avrei pensato di fare questo nella vita. Lo facevo però sempre solo per mio personale divertimento. Ad un certo punto quasi un po' come, sai, quando finisce di piovere che man mano sbucano queste lumache, no? A un certo punto cominciavano a venire fuori lentamente dei gruppi che facevano più o meno quella cosa lì, ma in maniera diversa, e quindi ricordo i Public Enemy, Beastie Boys, ricordo che Jovanotti uscì con un album che si chiamava For President, dove dentro c'era una canzone che si chiamava The Rappers, dove suggellava l'esistenza di una categoria, The Rappers. Esatto, era un elenco di rapper, che per me quella canzone deve essere assolutamente messa nel percorso del rap italiano, almeno per chi, insomma, ci è arrivato così. Io ci sono arrivato così, ripeto, non è che nella mia città ci fosse un tipo di movimento del genere, era una cosa nuova. Io ricordo, l'ho detto altre volte, questo fatto, quando a un certo punto ho visto un ragazzo che aveva sullo Zaino Invicta la scritta Run DMC, e mi sono illuminato, e ce n'è un altro che ascolta questo. E io quasi da subito, diciamo, ho provato a fare le mie cose, avevo delle agende. Poi facevo questa roba qui che ovviamente io suonavo un po' la tastiera, ma non avevo niente di quello che può far musica oggi, e quindi, diciamo, battevo i piedi sul suolo e cantavo sopra le mie rime. Ora queste cassette sono ancora tutte presenti nel mio archivio, non so se mi conviene cominciare a incenerirle, però... C'è la mia voce da bambino, capito, che tenta di fare le prime rime in italiano, no?

Fulvia, che è, oltre al titolo del tuo disco, letteralmente la membrana che gli animali perdono durante la muta. Chiamare così un disco, diciamo, è una dichiarazione importante, perché è l'annuncio di un cambiamento. In tutto questo, brani come La Scelta suonano anche centrali, no? Perché sono i periodi di scelta che portano a un cambiamento e che poi prevedono sempre la rinuncia a qualcosa a favore di qualcos'altro. Cos'è che in questo momento tu stai lasciando alle spalle e cosa vedi davanti a te? Domanda forse un po' marzulliana. Sto cercando di lasciare... È un po' marzullo, ma è pertinente la domanda. Sto lasciando alle mie spalle molto volgarmente il passato, inteso come proprio come spazio temporale. Non parlo di scelte, di scelte del passato, voglio concentrarmi sul presente. Il presente mi vede come adulto di 47 anni ad un giro di boa inevitabile, perché è inutile, abbiamo diciamo idealmente un tempo, no? Ecco perché c'è anche un pezzo che parla della morte, per esempio, come motivatrice, però, che ti spinge a vivere, quindi una morte positiva. E quindi io adesso sono in una fase molto delicata in cui devo cercare di capire se ha ancora senso per me quell'ostinarmi a concentrare tutto sul progetto musicale. Non so come dire, amo la musica e la amerò sempre. Mi ha dato tanto, mi ha tolto tanto anche nel mio caso. Io non ho una visione divina della musica, intoccabile. Io ho una visione quasi più concreta, più razionale di questo fenomeno che mi ha cambiato la vita, che è stato importantissimo per me. Però io sono in un momento, sono naturalmente in discussione. Non ho la stessa testa di 20 anni fa, né di 10 anni fa, nessuno di noi ce l'ha. Dobbiamo far pace con questa cosa qui, perché poi si creano dei conflitti che, sai, sono qui perché mi piace fare quello che faccio, perché mi ricordo che mi piaceva fare quello. Sì, perché poi c'è questa idea della coerenza come valore assoluto, per cui se uno cambia idea, guai. La coerenza è importante, però deve essere, cioè, l'importante è che tu sia coerente con il te stesso di adesso più che altro. Devi essere bravo, devi essere coerente, non ostinato. La coerenza è quella quotidiana con quello che tu pensi ora, detto in maniera molto spicciola, cioè c'è persino del cibo che mi faceva schifo da piccolo, che adesso mi piace tantissimo. È tutto un continuo cambiamento, e la vita, questo è un flusso continuo che ti serve, perché ti serve anche a scendere dai piedistalli e quindi a non pontificare su delle idee alle quali non credi neanche più, come dice il buon Bruno Risas, che non è un rapper, ma che comunque scrive bene. E quindi questo è, cioè, sono in un periodo un po' particolare. In questo periodo non ci sono entrato solo per il cambiamento cronologico che la mia vita subisce quotidianamente, ma anche perché ci sono delle cose che ti accadono nella vita. Ecco perché ho scritto: se non è la noia, sarà il tuo dolore a farti arrivare all'Exuvia. Quindi ci sono delle cose altre, più grandi di te. La vita mi ha indirizzato, ti parlavo prima delle sliding doors che ho avuto. Sembrava quasi che qualcuno stesse manovrando i miei fili dall'alto per portarmi esattamente dove sono arrivato. E beh, adesso ci sono tanti altri segnali che mi stanno portando da un'altra parte. Che devo fare? Cioè, non è che posso prendere la convenienza delle cose che mi offre il destino. E quindi finché avrò... godiamoci il presente, godiamoci Exuvia. Grazie mille, Caparezza, per questa chiacchierata. In bocca al lupo per tutto, per insomma qualsiasi strada tu scelga di prendere dopo questa Exuvia, e speriamo di incontrarci presto, magari stavolta di persona. Magari ci facciamo un tè insieme, dai. Magari una birra. Una birra. Grazie, allora. Caparezza, grazie mille di nuovo. Grazie a te, grazie, grazie mille.